La paura, origine, conseguenze e soluzioni. Non ho mai affrontato nessun argomento che fosse puramente teoria, perciò anche il tema della paura è il risultato di varie mie esperienze, soprattutto di una che, essendo un'esperienza in sé realmente traumatica, mi ha lasciato veramente scioccato. Dire che ero tentato al suicidio non è esagerato, ma di questo parlerò mentre considero l'argomento della paura nei suoi vari aspetti. La paura, assieme all'amore e all'odio, è il sentimento più comune della razza umana. Il bambino ha paura del buio o che la mamma muoia, lo studente ha paura degli esami, il genitore teme che il figlio diventi un delinquente, gli sposi hanno paura di essere traditi dal coniuge, il vecchio teme di essere abbandonato. Si ha paura del presente, del futuro, che avvenga un terremoto, un incidente. Si ha paura della morte o della persecuzione. Si ha paura di non essere amati, di essere abbandonati, di essere traditi. La paura è come l'ombra, ci segue ovunque. E, per dirla in senso ottimistico, dobbiamo ringraziare Dio se abbiamo soltanto paura perché, stando a quello che dicono gli psicologi, vi sono milioni di persone che vivono in preda ad un sentimento di terrore. La loro vita si può definire veramente un inferno. Esaminiamo dunque questo argomento con la preghiera che possiamo veramente vivere una vita secondo la volontà di Dio, cioè esente da paura. Considereremo la paura sotto tre aspetti. A. La sua origine. B. Cosa provoca. C. Come vincerla. A. La sua origine. Quando è nata la paura? Da dove è scaturita? Per prima cosa dobbiamo affermare con assoluta certezza che la paura non è stata creata da Dio. La paura, come l'odio, è uno dei sentimenti che sono scaturiti dalla corruzione della natura umana. Leggiamo come ebbe inizio la paura. Genesi 2, 25, 3, 1, 10. L'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna, «A Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse «Dove sei?» E gli rispose «Ho udito la tua voce nel giardino». E ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Il racconto della Genesi non è una favola da raccontare ai bambini, neppure una descrizione allegorica per far conoscere certe verità. O l'episodio descritto nell'Eden è vero, oppure esso non ha nulla da dirci. Secondo la parola di Dio, Adamo ed Eva erano stati creati per vivere in comunione con il loro creatore. Non conoscevano né la vergogna né la paura. Solo dopo che ebbero disubbidito all'Eterno, conobbero la vergogna e la paura, quell'ansia e paura, che diedero origine ad ogni tipo di ansia e paura, essendo il risultato di una mancanza di armonia fra il creato e il creatore. La vergogna e la paura sono quindi due sentimenti che scaturiscono dalla disubbidienza e dalla lontananza da Dio. Ne consegue che più l'uomo si avvicina a Dio, più realizza che la paura come neve al sole svanisce. Dal momento che la razza umana discende da Adamo ed Eva, noi tutti abbiamo insita nel nostro animo la capacità di avere paura. Ma non siamo nati con la paura. Se osserviamo un bambino piccolo, esso si abbandona completamente nelle mani di chi lo sostiene, perché ancora non conosce i pericoli. La paura è come la fede. Siamo tutti nati con la capacità di aver fede in Gesù Cristo, ma non tutti hanno questa fede. È innaturale. Quindi che l'uomo abbia paura, ma questo non è un sentimento cristiano, piuttosto il prodotto dell'allontanamento dell'uomo da Dio. B. Cosa provoca la paura? Se ogni sentimento, come l'odio, l'ira, la gelosia, ha la sua manifestazione, così pure la paura esterna, i suoi effetti negativi, ne esamineremo quattro. 1. Ci impedisce di vivere. 2. Crea ciò che teme. 3. Impedisce una fede attiva. 4. Ci rende schiavi. 1. La paura impedisce di vivere. La parola di Dio accenna molto della paura e l'affronta con la realtà che la caratterizza. L'apostolo Giovanni, definito l'apostolo dell'amore, non nasconde la realtà della paura nella vita del credente. Nell'amore non cic è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. 1 Giovanni 4 e 18. L'apostolo Giovanni, affermando che l'amore caccia via la paura, riconosce che questa esiste già nel cuore dell'uomo. La paura crea timore, apprensione, preoccupazione, e sa il potere di angosciare il cuore, di tormentare la mente, di produrre ansietà. Spesso la paura è un'emozione incontrollata e mal diretta. Rode il senso della felicità, della pace e della serenità. La paura tormenta la vita di una persona, danneggiandola e impedendole di essere se stessa. Qualcuno ha detto: il giorno migliore, oggi. La cosa più inutile, l'orgoglio. L'errore più grande, abbandonare la lotta. La più grande tranquillità, aver finito bene un lavoro. Le persone più sgradevoli, coloro che si lamentano sempre. Il più grande impedimento, la paura. La paura ci impedisce di vivere una vita normale. Essa ha le capacità di prosciugare ogni energia e di svuotare ogni risorsa. Ci induce a comportamenti che non avremmo in altri stati d'animo. Il più grande fallimento, la perdita dell'entusiasmo. Per paura si mente. Abramo, il padre della fede, Sara sua moglie, Isacco, il loro figlio, mentirono quando si trovarono in difficoltà. Che dire poi di Pietro, uno dei discepoli più zelanti, che per paura rinnegò Gesù? E noi, cosa abbiamo da dire di noi? Vi sono persone che per paura mentono ogni giorno, recitano una parte per non farsi scoprire. Il libro dello psicanalista svizzero Paul Tournier, dal titolo La nostra maschera e noi, è eloquente. Nel suo libro considera il legame inestricabile che ci è fra il personaggio e la persona, cioè la parte che recitiamo e ciò che noi siamo. In realtà, questo spiega perché alcune persone hanno due vite, una per la società, un'altra in privato. Purtroppo, questo è anche vero per alcuni figli di Dio, soprattutto per i figli di credenti costretti ad ubbidire a certe regole morali che ancora non hanno accettato nel loro cuore. Per paura ci si difende. Adamo giustificò il suo gesto di disubbidienza dicendo all'Eterno: «È stata la donna che tu mi hai messo accanto». Il che vuol dire, se tu non mi avessi messo accanto questa donna, io non avrei preso del frutto proibito, per questa inclinazione naturale di difesa. Vi sono persone che, in preda alla paura, sono sempre sulla difensiva e scaricano le colpe sugli altri. Si difendono da tutto e da tutti, senza rendersi conto di essere vittime di se stessi e della paura. Per paura si fugge. Come Mosè fuggì dall'ira del Faraone per paura di essere ucciso, come Elia fuggì dalle minacce di morte di Jezebel, così per paura anche noi scappiamo da certe situazioni. Troviamo mille scuse per non affrontare certi problemi, giustifichiamo una nostra assenza con ragioni che a volte sono ridicole. Non importano le ragioni per cui ci giustifichiamo, l'importante è fuggire dalla situazione che ci fa paura. In definitiva, la paura è molto probabilmente ciò che determina maggiormente le scelte e i comportamenti della nostra vita. Come leggiamo nel libro dei Proverbi, la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Proverbi 29:25. Un laccio o una trappola è uno strumento mortale. Una volta bloccata la preda, non la lascia. Quando la paura, l'angoscia, il terrore ci assalgono, siamo vittima di ciò di cui abbiamo paura. Ecco allora che le parole del profeta Isaia sono più che mai opportune. Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura. Non temete ciò che esso teme e non spaventatevi. L'Eterno degli eserciti, Lui dovete santificare. Sia Lui il vostro timore, sia Lui il vostro spavento. Isaia 8:12-13. Poiché la paura crea una dipendenza, poiché siamo vittime di ciò che ci fa paura, allora il profeta ci ordina di avere paura, cioè di avere una santa riverenza, un giusto timore di Dio per poterlo servire come Egli ne è degno. Questo è l'unico modo per essere liberati dalla paura degli uomini e delle circostanze della vita. Forse non vi abbiamo fatto sufficientemente caso, ma gli uomini che servivano l'Eterno, Dio generalmente avevano paura se consideriamo i continui inviti dell'Eterno a non averla. Essere umani significa avere paura, vivendo per lo Spirito Santo si caccia via tale sentimento. 2. La paura crea ciò che teme. Chi di noi non ha avuto a scuola paura di svolgere un compito e questo è andato in seguito male? Molto probabilmente eravamo in grado di svolgerlo, ma la paura ha creato ciò per cui avevamo timore. Questo aspetto si ripercuote anche nella vita quando siamo più grandi. Giobbe, che era stato colpito duramente dal diavolo, aveva perso figli, beni, reputazione in casa e fuori, e salute. Non solo. Egli era colto da paure che si avveravano regolarmente. Ecco cosa disse: «Non appena temo un male, esso mi colpisce, e quel che mi spaventa mi piomba addosso». Giobbe 3:25. Sembra strano, ma la paura ha il potere di attirare ciò che teme. Quando una persona ha paura di cadere, cade. Se uno ha paura di sbagliare, sbaglia. Non solo. Chi ha paura è attirato verso ciò di cui ha paura. Quando mio nipote aveva un anno, era attirato da ogni rumore di scavatrice, di ruspa. Oggi ne comprendo la ragione. Aveva paura del rumore di questi macchinari e non poteva rimanere indifferente. Mia madre è terrorizzata dai temporali, ma se ci è un argomento di cui parla volentieri e che ascolta con attenzione, sono le previsioni meteorologiche, soprattutto quando si prevede brutto tempo. La paura si materializza, attrae. 3. La paura impedisce una fede attiva. Noi non siamo nati con la paura, però certe circostanze possono creare e far sviluppare la paura. Molte nostre paure ci erano sconosciute fino a quando non ci siamo trovati in situazioni nelle quali era necessario avere fiducia o un credere attivo. Invece abbiamo permesso al nostro pensare o credere di deviarsi, in modo che la paura iniziasse a impadronirsi di noi. Il positivo è indietreggiato e il negativo ci ha influenzati condizionandoci. Mia madre, che vive sola, più volte mi ha detto di aver trascorso delle notti con molta paura. E questo, dopo aver visto dei film dell'orrore. Quando ero giovane, prendevo i pesci dei fiumi con le mani. Quando un pesce andava sotto un sasso, facevo scorrere le mani sotto il sasso fino a quando non prendevo il pesce. Un giorno, però, ho toccato una biscia d'acqua e da quel giorno, per paura, non ho più preso i pesci in quel modo. Parafrasando la frase di Gesù, ti sia fatto secondo la tua fede, si può dire ti sia fatto secondo la tua paura. Perché? Perché la paura è una fede invertita. Anziché essere una fede al positivo, è una fede al negativo. La paura è il prodotto di un credere o di un pensare errato, negativo, non basato sulla volontà di Dio. E una cattiva direzione delle facoltà mentali e spirituali dateci da Dio. La paura interpreta ogni situazione nel modo peggiore, dando fiducia alla negatività. L'episodio di Pietro che cammina sulle acque è significativo. Finché i suoi occhi erano su Gesù, egli camminava sulle acque in tempesta. Ma come osservò negativamente ciò che lo circondava, leggiamo: ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Matteo 14:30. Ciò che ha impedito a Pietro di avere una fede attiva e vittoriosa è stata la paura e non le circostanze avverse. 4. La paura rende schiavi. Se noi siamo condizionati dalla paura, è evidente che essa ha il potere di farci fare quello non che vogliamo. È in grado di renderci schiavi. Troviamo questo aspetto nella lettera agli Ebrei. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, Gesù pure vi ha similmente partecipato per distruggere. Con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti, quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita, Ebrei 2:14-15. Per natura, l'uomo ha paura della divinità alla quale si rivolge, perché teme da essa qualche punizione. La morte rimane per l'uomo un salto nel buio, è sempre un evento che desidera rimandare. Anche la persona religiosa che non ha realizzato un incontro personale con Cristo quale Signore e che obbedisce meccanicamente alla volontà di Dio teme la morte, perché non conosce cosa gli aspetta. Il pensiero della morte impedisce di vivere liberi e sereni, produce angoscia, come disse Pascale. Gli uomini, non riuscendo a vincere la morte, hanno finito per non pensarci. In questo modo, hanno rimandato un problema, senza averlo risolto. Solo Gesù può risolvere alla radice il problema della paura della morte. C. Come vincere la paura? La vita cristiana non è statica, ma è un cammino. Atti 9:31. Una corsa, 2 Timoteo 4:7, una lotta, 2 Timoteo 2:5, una gara, Ebrei 12:5, un combattimento, 2 Timoteo 4:7. È normale quindi che per un figlio di Dio la paura sia uno dei nemici da vincere. Rivestiamoci quindi dell'equipaggiamento che Dio ci ha fornito e che ci permette di vincere la paura. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. 2 Timoteo 1:7. Per quanto riguarda questo argomento, questa è una delle verità più belle e dinamiche che ci siano. Se crediamo a quello che Dio ci ha dato, l'intero corso della nostra vita sarà trasformato. Ecco tre atteggiamenti che dobbiamo avere per essere liberati dalla paura. 1. Dobbiamo confessare che abbiamo paura. 2. Dobbiamo affrontare la paura con la parola di Dio. 3. Dobbiamo esercitare una fede positiva. 1. Dobbiamo confessare di avere paura. In un mondo dove tutto deve apparire super, è difficile ammettere che si ha paura, ma questo è il primo passo verso la liberazione. Nel suo libro La forza di amare, Martin Luther King raccoglie una serie dei suoi sermoni. In uno di questi, Antidoti per la paura, fa alcune riflessioni che meritano di essere prese in considerazione. Rendendosi conto che la paura prosciuga l'energia dell'uomo e scuote le sue risorse, Emerson scrisse: «Non ha appreso la lezione della vita colui che non vince ogni giorno una paura a meno. Ma io non intendo suggerire che noi dovremmo cercare di eliminare interamente la paura dalla vita umana. Se anche questo fosse umanamente possibile, sarebbe praticamente indesiderabile. La paura è l'elementare sistema d'allarme dell'organismo umano che avverte dell'avvicinarsi dei pericoli e senza del quale l'uomo non sarebbe potuto sopravvivere né nel mondo primitivo né in quello moderno. La paura, inoltre, è una potente forza creativa. Ogni grande invenzione ed ogni progresso rappresenta il desiderio di sfuggire a qualche circostanza o condizione temuta. La paura dell'elettricità ha portato alla scoperta del segreto dell'elettricità. La paura del dolore ha portato ai meravigliosi progressi della scienza medica. La paura dell'ignoranza è stata una delle ragioni per cui l'uomo ha costruito grandi istituti scolastici. La paura della guerra è stata una delle forze che hanno dato origine alle Nazioni Unite. Angelo Patri ha detto bene: l'educazione consiste nell'aver paura al momento giusto. Se l'uomo perdesse la sua capacità di aver paura, sarebbe privato della sua capacità di progredire, di inventare e di creare. Così, in un certo senso, la paura è normale, necessaria e creativa. Ma dobbiamo ricordare che paure anormali sono rovinose a livello emotivo e psicologicamente distruttive. Per illustrare la differenza tra paura normale e anormale, Sigmund Freud parlò di una persona che con molta ragione aveva paura dei serpenti nel cuore di una giungla africana e di un'altra persona che aveva neuroticamente paura che i serpenti fossero sotto il tappeto del suo appartamento cittadino. Gli psicologi dicono che i bambini normali hanno due sole paure. Meno la paura di cadere e la paura dei rumori forti, meno è che tutte le altre paure sono acquisite dall'ambiente. La maggior parte di queste paure acquisite sono serpenti sotto il tappeto. Proprio a paure siffatte ci riferiamo di solito quando parliamo di liberarci dalla paura. La paura normale ci protegge. La paura normale ci paralizza. La paura normale ci spinge a migliorare il nostro benessere individuale e collettivo. La paura normale ci avvelena continuamente e distorce la nostra vita interiore. Il nostro problema non è di liberarci dalla paura, ma piuttosto di imbrigliarla e dominarla. Martin Luther King conclude il suo sermone con le seguenti parole. Le parole di un motto che nella passata generazione si trovavano di solito sulle pareti nelle case delle persone devote, devono essere impresse nei nostri cuori. La paura ha bussato alla porta. La fede ha risposto. Non c'era nessuno là fuori. Ancora una volta ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di valutare la vita dal punto di vista di Dio. Se è vero che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio, allora è vero che anche le cose negative, come la paura e l'ingiustizia, sono strumenti che contribuiscono al bene per chi desidera onorare Dio. Ne ha dato una bellissima testimonianza Giuseppe, il figlio di Giacobbe, quando fu venduto dai suoi fratelli. Quando in seguito i suoi fratelli chiesero perdono per il loro misfatto, Giuseppe rispose loro, «Non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Il Dio dei cristiani non è preso alla sprovvista dagli eventi negativi della vita, non è sconfitto quando i suoi servi hanno paura, ma lascia che coloro che lo temono siano provati affinché la loro fede sia fortificata. Così, se la paura ha il potere di impedire di vivere e di creare ciò che teme, di avere una fede attiva e rendere schiavi, colui che la vince per fede a una vita vittoriosa realizza che la paura è solo un fantasma, alimenta la fede e trova la vittoria. Se questo può aiutarci a confessare che abbiamo paura, i più grandi uomini di Dio non furono sempre coraggiosi come Abramo, Mosè, Elia, Pietro. I salmisti erano onesti nelle loro preghiere. Penso che pochi avrebbero il coraggio di fare pubblicamente la seguente preghiera dal significativo. Titolo: Getta il tuo peso sull'Eterno, perché la riterrebbero poco spirituale. Salmo 55, 1 a 7. O Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non ignorare la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo, per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira mi perseguitano. Il mio cuore è angosciato dentro di me e spaventi mortali mi sono caduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito e il terrore mi ha sopraffatto. Perciò ho detto, «Oh, avessi io le ali come una colomba! Me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto». Gli uomini di Dio erano prima di tutto uomini. Essi non si vergognavano di esprimere le loro emozioni. Esprimevano con ardore la loro fede, ma altresì esponevano con marcata sincerità i loro dolori e dubbi. Un filosofo francese ha detto, nessun uomo è forte se non porta nel proprio carattere antitesi fortemente marcate. Sono proprio questi opposti, fede incrollabile, forti dubbi, che fanno di una persona un uomo di Dio forte. Ciò che rende saldo un uomo è il suo desiderio di vita di santità e la sua onestà di fronte ai suoi errori. Non serve a nulla nascondere il peccato o le nostre inclinazioni negative. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, nel Salmo 32 ha fatto questa esperienza.

è anche quella di coloro ai quali l'ho raccontata. Non tutti, ovviamente, hanno simili esperienze, anche se ho raccolto delle testimonianze di figli di Dio simili alle mie. Vi sono persone che sono terrorizzate dai serpenti, altre dai ragni, altre dagli scorpioni. Ho visto un documentario trasmesso dalla televisione nel quale una persona si metteva in bocca dei serpenti e scorpioni vivi. Cosa dobbiamo fare per avere una giusta opinione delle cose della vita? E Dio che ha la giusta opinione della vita, per cui se io mi nutro delle sue promesse non avrò turbamenti e caccerò le paure. Abbiamo paura della tentazione? Facciamo nostra la promessa che leggiamo 1 Corinzi 10 e 13. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Abbiamo paura della fame? Appropriamoci della promessa contenuta in Proverbi 10, 3, l'Eterno. Non permetterà che il giusto soffra la fame, ma respinge il desiderio degli empi. Abbiamo paura di perdere la fede? Crediamo in ciò che è scritto nel Salmo 55, 22, getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Abbiamo paura del futuro? Facciamo nostre le parole dell'Apostolo Paolo in Romani 8, 31, 39. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come è scritto. Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo paura della morte? Impariamo a memoria il Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Non riteniamo ciò che è scritto nella parola di Dio solo dei versetti da imparare a memoria. La parola di Dio creduta e praticata ha il potere di liberarci da ogni paura. Così, quando abbiamo paura, rispondiamo con la parola di Dio. Sfidiamo la paura con la verità. Esponiamo i nostri dubbi alla luce. Se Gesù ha risposto alla tentazione di Satana con la parola di Dio, noi non possiamo avere un'arma migliore. Crediamo a quello che afferma la parola di Dio nella lettera ai Filippesi, capitolo 4. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. Che la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Se noi facciamo conoscere a Dio in preghiera i nostri problemi, la conseguenza è e la pace di Dio guarderà il cuore e la mente. Non conosco un metodo più semplice ed efficace di questo. Tale metodo produrrà degli effetti diurni e notturni. Nel libro dei Proverbi vi è un'ulteriore promessa. Proverbi 3:21-26. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione, esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Questa è la ragione per la quale occorre nutrire la nostra mente delle promesse di Dio perché non sia occupata di cose inutili e vane. Noi non possiamo immagazzinare impunemente ogni nozione. Il nostro cervello è limitato. Scrisse, a proposito Sir, a Conan Doyle, il cervello di un uomo, in origine come una soffitta vuota. La si deve riempire con mobilio di nostra scelta. Incauto vi immagazzina tutte le mercanzie che si trova tra i piedi. Le nozioni che potrebbero essergli utili finiscono col non trovare più il loro posto o, nella migliore delle ipotesi, si mescolano con una quantità di altre cose, cosicché diviene assai difficile reperirle. Viceversa, lo studioso accorto seleziona accuratamente ciò che immagazzina nella soffitta del suo cervello. Ci mette soltanto gli strumenti che possono aiutarlo nel lavoro, ma di quelli tiene un vasto assortimento e si sforza di sistemarli nell'ordine più perfetto. È un grave errore illudersi che quella stanzetta abbia le pareti elastiche e possa ampliarsi a dismisura. Viene sempre il momento in cui, per ogni nuova cognizione, se ne dimentica qualcuna acquisita in passato. Di conseguenza, è importantissimo evitare che un assortimento di cognizioni inutili possa spodestare quelle utili. Uno studio in rosso. È inevitabile che la nostra mente sia limitata, ecco perché è saggio tenerla occupata di cognizioni utili. E quali cognizioni più utili possono esserci se non quelle di Dio? Tutto ciò che vediamo e sperimentiamo rimane registrato nella nostra mente. Essa è come un computer, registra e mette in memoria ogni dato che gli diamo. È per questo che tutti più o meno siamo condizionati da esperienze fatte nel passato, sia che ne siamo coscienti oppure no. Gli psicologi hanno più volte fatto notare, in accordo con la parola di Dio, che noi possiamo essere guidati più dall'inconscio che dalla nostra volontà. Dobbiamo quindi immagazzinare la parola di Dio perché, se è vero che ha una mente retta, non è necessaria una grande istruzione, allora il primo bisogno di un cristiano per la sua mente è la conoscenza della santità di Dio. Dopodiché, bisogna essere dei facitori della parola di Dio. 3. Dobbiamo esercitare il credere positivo. Sfidare le nostre paure con la parola di Dio è solo l'inizio. In seguito si deve sviluppare l'abitudine di praticare la parola di Dio. Ma mettere in pratica la volontà di Dio non è facile, anzi è impossibile. Nessuno di noi è in grado di compiere con le proprie forze il volere di Dio, e così quando Dio ci ordina di fare una cosa ci dà anche la possibilità di compierla. Ecco cosa scrisse Paolo a Timoteo nella sua seconda lettera al capitolo 1. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice e, sono convinto, abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu, per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Come abbiamo detto, essere uomini e donne di Dio non significa essere esenti dalla paura, perché non avremmo più una natura umana. Quando Gesù era nel Getsemani, e davanti a lui si prospettavano le sofferenze della croce, trovò tristezza e grande angoscia, Matteo 26:36, al punto che il suo sudore divenne grosso come gocce di sangue. Non so se questo era l'effetto della paura, ma certamente non era qualcosa di bello. Paolo ordina a Timoteo di non aver vergogna, cioè paura, della testimonianza di Gesù Cristo, perché aveva una fede sincera. Con la fede aveva ricevuto, come tutti, un dono spirituale. Dio gli aveva dato, come a tutti, lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è uno spirito di forza, coraggio, d'amore e di autocontrollo, sobrietà. Le tre caratteristiche dello Spirito Santo che abita in ciascun credente sono quindi l'amore, la temperanza e il coraggio. Lo Spirito di Dio è la risposta alle nostre paure. Quando il credente vive per lo Spirito di Dio, la potenza sottile e satanica della paura fuggirà. Come abbiamo letto, l'amore caccerà la paura. Dobbiamo accettare questa realtà. La paura e il coraggio coabitano nel credente. Sta scritto in Galati 5, 16-23. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni. 7. Invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso. Chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non ci è legge. Noi avremo coraggio o paura secondo il sentimento che alimentiamo. Se alimentiamo la nostra mente di ciò che ci propone del continuo il mondo, con la televisione, i giornali, le ideologie, avremo una vita vincolata dalla paura. Se la parola di Dio occupa la maggior parte dei nostri pensieri, noi possiamo dare nuovi significati alla nostra vita e al mondo. I problemi diventeranno incitamenti e provocazioni per realizzare la potenza di Dio. Le difficoltà della vita diventeranno occasioni propizie per dimostrare al mondo la nostra fede. Le necessità diventeranno un mezzo per conoscere la provvidenza di Dio. I nemici saranno strumenti nelle mani di Dio per benedire la nostra vita. La vita cristiana non sarà un semplice combattimento, ma il buon combattimento, perché in cielo ci aspetta il premio. Considereremo Satana come uno sconfitto. Vedremo e ragioneremo come vede e ragiona Dio, perché un figlio di Dio ha la mente e il pensiero di Cristo. 1 Corinzi 2:26. Leggiamo cosa scrive l'Apostolo Giovanni in merito alla paura. 1 Giovanni 4:16-19. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non ci è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Anche se hai conosciuto l'amore di Dio, puoi ancora avere paura. E questo è normale. Ma se questo sentimento persiste nel tuo cuore, significa che il tuo amore non è perfetto, non è completo. Giovanni ti invita a credere positivamente alla rivelazione di Dio. Tu sei quello che Dio dice di te. Se Dio afferma che tu sei un peccatore, significa che lo sei. Se Dio afferma che chiunque crede in Cristo è salvato, se credi con tutto il tuo cuore, sei salvato. Se Dio afferma che chiunque crede in Cristo diventa suo figlio, se credi, significa che lo sei. Se Dio afferma che ti ama, significa che tutto coopera al tuo bene. Se Dio afferma che chiunque crede in Lui non sarà condannato, significa che ora non hai ragione di aver paura del giudizio di Dio. Se Dio afferma che ti ha dato uno spirito di forza, non devi temere di cadere perché avrai la forza di rialzarti. Se Dio afferma che sei redento, cioè riscattato, significa che sei libero dalla schiavitù del peccato, della paura degli uomini, dalla potenza di Satana. L'amore di Dio caccia via ogni tipo di paura. Tu sei amato ora e per l'eternità. Cerca quindi per riconoscenza alla presenza di Dio con tutti i santi e prega ad alta voce con il salmista: L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, miei nemici ed avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio, perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo. Canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. Salmo 27. Come la paura può diventare una potenza che distrugge la tua vita, così l'amore di Dio sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo può diventare la potenza liberatrice della tua vita e del tuo essere intero, anima, corpo, spirito. Facciamo nostro, personalizzando, il cantico di Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché mi ha visitato e riscattato, e mi ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che mi salverà dai miei nemici e dalle mani di... Egli usa così misericordia verso i padri, e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad... Abramo di concedermi che, liberato dalla mano dei miei nemici, io lo serva senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della mia vita. Luca 1, 68-75. Dopo aver pregato in questo modo, serviamo Dio senza paura del suo giudizio, tutti i giorni della nostra vita. Riconosciamo ad alta voce le sue promesse, e il maligno, anche se è un leone ruggente che ci vuole divorare, fuggirà da noi, liberi e liberati. Un canto di gioia ci accompagnerà fino alla nostra dimora eterna. Febbraio 1999. Ellero.